America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito queste urla della signora Diane Wilson, una texana di 61 anni, pescatrice di gamberi, urla in Parlamento americano nell'aula delle audizioni di Tony Hayward, l'amministratore delegato della British Petroleum. È stato un benvenuto ovviamente alquanto violento, ma che ha dato un po' l'idea di come sarebbero andate queste audizioni. La signora è stata portata via dalle guardie del Parlamento e andandosene a mostrato le sue mani gocciolanti, sporche di petrolio, e subito dopo Hayward, l'amministratore delegato della BP, ha giurato. Sentiamolo. The explosion and fire aboard the Deepwater Horizon and the resulting oil spill in the Gulf of Mexico never should have happened. Come avete sentito, voce calmissima, accento britannico perfetto. Hayward ha cercato in qualche modo di giustificare le sue posizioni, ha detto che la BP sta conducendo un'inchiesta interna, ha cercato di essere il più cooperativo possibile, ma il suo accento britannico non è servito. Sentiamo questo scontro fra lui e Henry Waxman, il presidente della Commissione Energia della Camera. Because they're going to have a hard time reaching conclusions if you stonewall them, which is what we seem to be getting today. I'm not stonewalling. I simply was not involved in the decision-making process. Lo scontro che avete sentito fra Henry Waxman, presidente della Commissione Energia della Camera, e Tony Hayward è stato soltanto così uno dei piccoli intermezzi in quella che è stata un'ora e mezzo, minuto più minuto meno, di insulti per il presidente, per l'amministratore delegato della British Petroleum. Insomma, devo dire, non deve essere stato facile per lui ascoltare muto questi capi d'accusa che gli sono stati presentati dai parlamentari americani, che uno dopo l'altro lo hanno attaccato, devo dire, con una violenza verbale non da poco. Era la sottocommissione di supervisione e inchiesta della Camera. Ecco, le accuse fondamentali che sono state portate a Hayward sono molto semplici. La British Petroleum non ha ascoltato i propri ingegneri, non ha ascoltato i consigli degli esperti. Per risparmiare quattrini, per l'esattezza posso dirvelo, per risparmiare circa 7, 8, 9 milioni di dollari, ha deciso di non procedere lungo la strada più sicura, quella che avrebbe comportato appunto una settimana in più di lavoro, ma la costruzione di impianti leggermente più solidi. Ecco, è su questo che la Commissione ha insistito. E dunque, nonostante Hayward fosse già andato il giorno prima alla Casa Bianca a cospargersi il capo di cenere con il presidente Obama, che gli ha imposto una resa senza condizioni e che lui ha accettato, naturalmente ha accettato di pagare 20 miliardi di dollari, ha accettato di versare questi soldi in un fondo separato, blindato, al di fuori del controllo della BP, ha accettato che ci fosse una commissione esterna che avrebbe poi deciso come sarebbero state rimborsate le vittime con questi fondi, ha accettato anche di sospendere il pagamento dei dividendi e di costituire un fondo da 100 milioni di dollari per rimborsare i lavoratori nel settore petrolio che hanno perso il loro lavoro per via della moratoria imposta dalla Casa Bianca per 6 mesi sulle trivellazioni nel Golfo. Ecco, tutto questo non è bastato. Lo scontro è stato duro e devo dire il signor Hayward non è stato chiarissimo, più volte è stato vago, ha detto che ancora si sta procedendo con l'inchiesta, non è chiaro quali sono i risultati, ha detto io non sapevo assolutamente di tutto questo, sono stati gli ingegneri che hanno deciso e così via, così via. Ebbene, devo dirvi che in America la regola è molto semplice. Nel momento in cui tu sei responsabile di un'azienda, l'azienda ha sbagliato, devi chiedere scusa, devi prenderti tu le responsabilità, non devi buttarle sugli ingegneri. Questo ha fatto irritare soprattutto i parlamentari americani. And if anything I've said this morning has been misconstrued in an opposite effect, I want to apologize for that misconstrued. Bene, allora la bagarre parlamentare di ieri a Washington, devo dire, si è conclusa poi con una sorpresa, perché del tutto inaspettatamente Joe Barton, un deputato repubblicano del Texas, si è alzata in piedi e ha chiesto scusa a Hayward, che fino a quel momento, come vi ho detto, era stato tartassato senza pietà da tutti i parlamentari. Questa uscita di Joe Barton ha colto tutti di sorpresa. Cioè, io mi devo scusare con lei perché quello che è stato fatto dall'amministrazione, questa imposizione a pagare, a versare questi contributi, è totalmente inaccettabile, è una cosa che è fuori dalla legalità, e così via, così via. Cosa che ha scatenato naturalmente la reazione della Casa Bianca. David Plouffe, lo stratega del presidente Obama, ha subito inviato un'email, l'ho ricevuta io stesso nella mia casella postale, in cui dice: bene, ecco cosa fanno i repubblicani. I repubblicani chiedono scusa a chi ha rovinato il patrimonio ambientale americano. La vicenda chiaramente ormai non è più economica, non è più ambientale, la vicenda è politica. Ci sono elezioni a novembre, Barack Obama ha fatto il suo show l'altro giorno, ieri c'è stato lo show in Parlamento, Joe Barton ha commesso tutto sommato un errore, credendo così di portare acqua al partito repubblicano, e in effetti ieri notte è stato costretto a fare marcia indietro, ha chiesto a sua volta scusa, ha detto che le sue parole non erano state capite bene fino in fondo. Y'all ready for this? I Lakers hanno vinto il titolo del National Basketball Association, il campionato di basket americano. Grande notizia, grande partita, entusiasmante. Vi risparmio i dettagli della cronaca, ma vi dico che forse i Lakers di Los Angeles sono stati aiutati dal fatto che comunque la battaglia finale si è combattuta in casa, allo Staples Center di Los Angeles, spalti gremiti, e naturalmente, chissà, forse l'appoggio psicologico di una star del cinema come Jack Nicholson, loro grande tifoso, come sempre in prima fila, ha dato il contributo decisivo. Bene, abbiamo avuto una giornata in cui vi ho parlato di scontri al congresso, scontri sportivi a Los Angeles. Vorrei chiudere con un paio di notizie di cronaca nera. La prima: Ronnie Gardner è stato giustiziato a Salt Lake City per fucilazione. Devo dire, fa così in un certo senso un po' orrore che una persona scelga, perché in realtà è stato lui che ha chiesto di essere giustiziato con la fucilazione, ci dà così un'idea di altri tempi, eppure è andata così, e quindi l'America si è svegliata questa mattina con la notizia che tutto, tra virgolette, era andato bene. Altra notizia bizzarra: nell'aeroporto di Little Rock in Arkansas sono state trovate 60 teste umane in un container. Ecco, devo dire, questa cosa mi ha lasciato alquanto esterrefatto, e mi ha lasciato esterrefatto soprattutto la comunicazione della società Giles Consulting, che doveva essere una società biochimica che effettuava queste spedizioni, la quale ha detto: no, era tutto normale, queste cose succedono normalmente. Dunque, 60 teste umane in un container. La polizia ha aperto un'inchiesta per capire se dietro questo container ci sia un traffico illegale di resti umani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Forse l'avrete dimenticato, ma ormai è quasi un anno che Michael Jackson è stato trovato morto nella sua casa, e per l'occasione di questo anniversario Billboard, il primo magazine di musica negli Stati Uniti, ha cercato di fare una classifica per capire quale fosse la canzone più amata in assoluto di Michael Jackson. Ebbene, è emerso che la canzone, il duetto del 1933 con Paul McCartney, 666, ed ecco dunque 666, Michael Jackson e Paul McCartney. 666, what you want, but don't play games with my affection. Take what you need, but don't leave me with no direction. All alone, I sent home by the phone, I waited for you, baby. Through the years, I kept you standing, yeah. My plate didn't fall. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.